Uno. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, 100.000. Uno, nessuno, 100.000. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Eccoci signori, una nuova settimana di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo qui in diretta da Radio 24, in diretta con voi fino alle 11, io sempre dalla ridotta di Viale Monza, ma siamo con voi e con tutta la redazione, da Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti, Elisabetta Fusconi, c'è Danilo Di Trani, lui e il suo Milan in grande rimonta, insieme Bolo, all'Alpino. In area di rigore, Musaborro! Che succede? Musaborro! Rimonta del Bologna! Questo non era il Milan, però. Dal Gambia, prima Juvara. Dal Gambia. Ah, c'è la Coppa d'Africa. Musaborro, attenzione, segnato il Gambia. Buono. Dai, va bene, dai, non sapevo ci fosse la Coppa d'Africa, il Gambia. Allora, cos'è, è passato il turno, gli ottavi di finale. Va bene, sono gol che capitano, 349-238-6666, questo è il numero per i vostri WhatsApp, i vostri video, i vostri audio, noi li mandiamo in onda insieme a voi. Abbiamo tante cose da dire, tante cose da raccontare. Vai Alpino. Enthusiasm about the future. Siamo qui oggi, parliamo di tanti temi. Beh, devo dire, avete sentito la notizia un po' che rattrista, addolora tutti quanti. La musica che sentite non è certo, è un po' più rock rispetto alle musiche evocative, epiche, che hanno fatto la storia della musica e del cinema del maestro Ennio Morricone. Notizia di poco fa, l'abbiamo sentita sia da Simone Spezia sia al giornale radio. Ci ha lasciati Ennio Morricone, un grandissimo davvero, che ha segnato la storia dello spettacolo a 360 gradi, musica e cinema. Le colonne sonore di Ennio Morricone le conoscete davvero tutti. Magari nel corso della trasmissione qualcuna la facciamo anche sentire, per far capire insomma che vi hanno accompagnato in tutti questi decenni in film celebri. Allora signori, siamo qui, 800 24 00 24, il numero per intervenire. Devo dire una cosa, che io sono rimasto colpito su questa storia della movida. Torna la movida, torna a essere colpita la movida, le foto con la gente a Milano, la gente a Roma, la gente a Torino, la gente a Napoli, tutti accalcati l'uno sull'altro. Devo fare questo tipo di provocazione però. Vi ricordate la vicenda di Napoli? Segno solo questo tipo di distorsione. La vicenda di Napoli, quando a Napoli hanno vinto la Coppa Italia contro la Juve, sono scesi in piazza a festeggiare in tre in motorino, tutti accalcati, criminali, disgraziati, farabutti, gli hanno detto di tutto, l'OMS, irresponsabili. Ecco, io noto che l'informazione, quando si tratta di colpire, colpisce duramente le forme sbagliate di aggregazione. Nessuno però ha sottolineato che 15 giorni sono passati, e ne sono passati anche di più, e non mi sembra che siano registrati dei casi, dell'esplosione di casi di coronavirus e di contagi a Napoli. Non so, avete informazioni? Forse faccio una sfida a Lucchetti, ma non mi risulta che ci siano delle esplosioni di contagi a Napoli dopo tutte quelle persone una insieme all'altra. Però questo è successo. Però la novità, l'avete sentita nel weekend, è la proposta del TSO. Io quando leggo TSO, cioè trattamento sanitario obbligatorio, che è in capo ai sindaci, un pochino mi spavento, perché uno in genere lo associa alla malattia mentale, col TSO, il trattamento che viene fatto. Sentite Zaia, Regione Veneto, dove è successo il caso che sapete, nel Vicentino, di un imprenditore che è andato in Serbia, è tornato, ha portato il virus, ha contagiato un po' di persone. Vai. Ma è fondamentale che ci sia il ricovero coatto senza star lì, deve essere un TSO, cioè un trattamento sanitario obbligatorio, perché non possiamo star lì a discutere con una persona che si rifiuta di farsi ricoverare. E dall'altro la necessità di essere severissimi con gli isolamenti fiduciari. Ma non si può star lì a discutere. Voglio salutare il sindaco di Bari, presidente dell'ANCI, Antonio De Caro, Partito Democratico, tra l'altro con un alloro in testa, lui non lo sa, ma oggi, cioè, lo saprà sicuramente, ma il Sole 24 Ore nella classifica Governance Poll mette il sindaco De Caro primo nelle preferenze. Ecco, ce l'ha l'alloro, la corona in testa. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Me ne sono accorto stamattina, mi arrivavano tanti messaggi, non mi ero reso conto a cosa si riferissero, poi ho visto la rassegna stampa. Beh, le avrà fatto piacere, no? Questa, ricordiamo, cioè, è un sindaco che se si votasse oggi avrebbe il maggior numero di preferenze. Ecco. Le faccio questa, non è che, siccome è noto tra l'altro che tra i governatori è molto in calo il presidente della sua regione, non è che si candida, non è che c'è la staffetta come Mazzola, Rivera e si candida lei alle regionali? No, anche perché io sto coordinando la campagna elettorale del Presidente della Regione da qualche giorno, sto dando una mano al mio amico quindi, Presidente di Regione. Poi il risultato non è poi male, quello di Emiliano. Di Emiliano, no, infatti, che è molto in alto. Allora, darà qualche consiglio per farlo recuperare. Senta, De Caro, io le chiedo questo perché ho letto anche una sua intervista sul Quotidiano Nazionale, mi sembra anche lei favorevole a questa storia del TSO. Io adesso lei ci dice cosa ne pensa. Quando l'ho vista, a me, molto liberale, ha fatto un po' effetto da Unione Sovietica, però capisco, il tema è molto delicato, ci spieghi cosa ne pensa lei? In realtà io, più che essere disponibile al TSO, favorevole al TSO, ho spiegato in quella intervista che in realtà già da un mese, con la modifica del Cura Italia, in un emendamento presentato dalla Presidente della Commissione in Parlamento, abbiamo il potere di ordinanza sulla quarantena, che prima non avevamo perché non c'era una legge nazionale che ci permetteva questo, tant'è vero che le quarantene venivano ordinate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL di riferimento. Da un mese lo facciamo noi nei casi in cui sia necessario isolare, non solo in maniera fiduciaria, ma anche con l'obbligo, chi per esempio è positivo e deve restare necessariamente a casa o deve stare in una struttura sanitaria. Esiste già, non è un trattamento sanitario obbligatorio, però è un'ordinanza. No, però uno può, certo, uno la può violare però l'ordinanza. Cioè, mi faccia l'esempio concreto, mi sta dicendo che il sindaco poteva obbligare quell'imprenditore di Vicenza che al pronto soccorso dice no, non mi ricordo. Su segnalazione della ASO, delle forze dell'ordine, se qualcuno ha violato una quarantena che era stata, diciamo, suggerita dalla ASL, il sindaco successivamente può fare un'ordinanza. La violazione della quarantena. Ma il ricovero invece? Cioè il ricovero coatto, come il ricovero, come dire, il trattamento sanitario obbligatorio, starei attento, perché trattamento sanitario obbligatorio per le norme del nostro paese si possono fare solo, come giustamente dicevate in trasmissione, per problemi di natura psichiatrica. Su consiglio dello psichiatra il sindaco fa un'ordinanza che è prevista però da una norma nazionale, ma nessuno sa che poi quell'ordinanza viene sottoposta al vaglio di un magistrato, perché il trattamento sanitario obbligatorio rappresenta una limitazione della libertà privata. E questo io non lo sapevo, per esempio, infatti. Cioè c'è un magistrato che si esprime un magistrato, questo non lo sapevo. Valida, sì. Quindi lei, diciamo, questa idea del, perché Zaia ha detto subito, senza discutere, trattamento sanitario obbligatorio, mi spaventa questo modo di dire, è giusta la sanità pubblica, bisogna come dire, tutelare la salute pubblica e quindi della maggioranza della popolazione, però insomma, viva Dio, ci chiedono il consenso anche per fare un prelievo del sangue, ora un ricovero coatto mi sembra. La norma che prevede l'ordinanza da parte del sindaco prevede anche delle sanzioni, e quindi io credo ci si possa limitare a questa tipologia di obbligo con l'ordinanza sindacale richiamata dal decreto Cura Italia. Fare un trattamento sanitario obbligatorio mi sembra un po' eccessivo. un po' eccessivo, un po' eccessivo. Lei la vede esagerata. Senta, questo tema della, della movida, lei anche si è distinto durante il lockdown perché andava in giro, c'erano molti video, richiamava all'ordine le persone. Non nota che c'è una disparità, cioè c'è molta durezza nel dire attenzione agli assembramenti sbagliati, però quando poi non succede granché, come il caso di Napoli, nessuno sottolinea questo fatto, ma senza voler dire per questo che il virus è scomparso, per carità. È una questione psicologica, anche nella mia città ci sono zero contagi, ci sono solo 13 persone in isolamento fiduciario, sono stati chiusi tutti i reparti Covid, quindi psicologicamente i cittadini che sanno che possono uscire, sanno che sono aperti i locali, si può andare in spiaggia, ovviamente tornano a recuperare gli spazi che occupavano prima del lockdown, e ovviamente sono gli spazi della movida, sono gli spazi vicini al mare, dove magari si trova il refrigerio non solo la mattina facendo il bagno, ma anche la sera cercando un po' di brezza marina. Ma succede non solo ai cittadini della mia città, sono gli spazi che vengono occupati anche dai cittadini dei comuni limitrofi. La stessa cosa credo accada a Napoli. Fino a quando il numero dei contagi è basso, ovviamente psicologicamente il cittadino è portato a, diciamo, a superare anche le restrizioni, ecco. Io non ci trovo nulla di male, questo voglio dire, secondo lei sbaglia il cittadino che vuole riappropriarsi un pochino di un po' di libertà, dice se ci sono 13 no. casi a Bari. L'importante è sapere che quella, se mi permettete il termine, è una libertà condizionata, nel senso che cioè, per ora ce la possiamo permettere perché siamo usciti dall'emergenza sanitaria, ma non abbiamo sconfitto il virus come dimostrano i focolai che ci sono in giro per l'Italia. Se non rispettiamo le restrizioni, se non stiamo a una certa distanza, se non utilizziamo la mascherina nei luoghi chiusi, il contagio può ritornare. Il tema è che siccome stiamo all'aria aperta, anche la movida, le spiagge, in realtà stando all'aria aperta è più difficile che ci sia il contagio, che si possa diffondere il contagio, è più facile negli ambienti chiusi. Nel periodo estivo stiamo più tempo all'aperto e quindi, diciamo, la catena del contagio un po' si interrompe. Sindaco, io la ringrazio, ripeto, Antonio De Caro, fresco vincitore, leggete sulle 24 ore il governance poll, insomma l'amministratore che ottiene più consensi se si votasse oggi, vince, come tra i governatori vince Zaia. E grazie per essere stato qui con noi, Antonio De Caro, è anche il presidente dell'ANCI, quindi di tutti i comuni italiani, nonché sindaco di Bari, Bari per l'appunto. Allora, ci sono tanti WhatsApp su questo tema, il tema, ma non so perché qualcuno mi dice l'imprenditore è serbo, non vicentino, no, l'imprenditore è di provincia, della provincia di Vicenza, credo Sossano, credo che abiti lì, poi è andato in Serbia ed è tornato. Ed è stato contagiato certamente da una persona in Serbia che peraltro, fanno sapere, è morta nel frattempo, però questo imprenditore vicentino, tornando poi in Italia, ha riportato il classico coronavirus di ritorno dagli altri paesi. Allora signore, adesso alle 9:21 io voglio introdurre un ospite, lo faccio leggendo uno stralcio di un'intervista oggi a Libero di Gerardo Colombo. Pietro Senaldi, direttore di Libero, ha intervistato Gerardo Colombo, ex PM di Mani Pulite, molto noto, anche se da anni ha lasciato la magistratura, parla di corruzione, parla con il classico paragone della corruzione oggi ai tempi di Tangentopoli, e dice Gerardo Colombo: allora, cioè ai tempi di Tangentopoli, la corruzione era collegata al finanziamento illecito ai partiti, ai quali andava una fetta consistente del ricavato. Era un sistema con le sue regole che spesso prevalevano su quelle scritte nei codici. Oggi la corruzione è altrettanto diffusa, più o meno a qualsiasi livello, ma mi pare che ai piani alti sia più anarchica e meno sistematica. Non so che cosa ne pensi. Michele Corradino, che dal 2014 è commissario all'ANAC, autorità anticorruzione, è la sua ultima settimana, credo, in ANAC, lascerà poi questo incarico. Dottor Corradino, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Lei ha scritto anche libri, uno ricordo Per chiare lettere, è normale, lo fanno tutti, certo questo lo fanno tutti, è proprio legato alla corruzione. È abbastanza d'accordo? È d'accordo o non è, è in disaccordo con l'analisi del dottor Colombo sulla corruzione ieri e oggi? Sono abbastanza d'accordo, nel senso che effettivamente noi assistiamo a questo fenomeno di polverizzazione, anche l'ultima relazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fatto emergere il fatto che ci siano talvolta delle forme di tangente che sono estremamente povere nel loro contenuto economico. Però noi non possiamo dimenticare che il fenomeno è ugualmente pervasivo. E voglio ricordare che la sentenza Mafia Capitale, che è stata appena depositata dalla Corte di Cassazione, contiene una frase che davvero è drammatica e dice: in realtà il palazzo, intendendo dire così il palazzo del potere, si è completamente consegnato, si è consegnato alla mafia, alla corruzione, per ragioni di arricchimento. Quindi non c'è stato bisogno di una violenza nei confronti del palazzo. Ecco, quindi io credo che è vero che c'è stata una materializzazione della tangente, una modificazione strutturale proprio del tipo di rapporti, però la pericolosità e il modo di essere della corruzione, il modo di essere del consegnarsi del palazzo, come tutta la Corte di Cassazione, così drasticamente, io credo che sia forse lo stesso. È lo stesso. Certo, lei ha fatto cenno all'ultima relazione dell'Autorità Anticorruzione della scorsa settimana. Fa sorridere pensare, cari ascoltatori, che avete trovato anche una corruzione, credo, per un prosciutto, cioè una persona che si è fatta corrompere per un prosciutto, un salame, non lo so adesso, sì. Voglio dire, quello forse è il colore, però è emblematico di che cosa? Un tempo forse un prosciutto non bastava per corrompere una persona. Un tempo un prosciutto non bastava sicuramente, e ci sono, ecco, fenomeni di tutti i generi, anche in quel libro che lei ricordava, insomma, l'avevo già messo in rilievo, il fatto che ci fossero state talvolta addirittura la carta igienica, un altro soggetto voleva un escavatore, ecco, c'è effettivamente una stranezza nuova nelle tangenti, nel modo di... È la famosa corruzione anarchica a cui fa riferimento Colombo: ho bisogno di un escavatore, datemi un escavatore, insomma, Proprio così, però da quei dati, secondo me, al di là adesso del dato folcloristico di queste micro tangenti che effettivamente si diffondono, c'è secondo me qualcosa che bisogna andare a guardare, cioè queste tangenti ci sono, ma il denaro continua a circolare, e c'è poi questa tangente smaterializzata, cioè la tangente in cui non si paga del denaro, ma in realtà la stessa relazione tra i soggetti finisce con il diventare la tangente, cioè il mettersi a disposizione, l'entratura nell'ufficio, e io credo che questa sia ancora più pericolosa. E se andiamo a guardare quei dati fanno emergere un quadro molto preoccupante, perché la corruzione si diffonde soprattutto, dicono quei dati, nei lavori pubblici, nella sanità e nei comuni, ecco, esattamente, e nei rifiuti, cioè esattamente quelle aree in cui la criminalità organizzata cerca di prendere il sopravvento. Ecco, allora il grande timore che io avverto però è che questo tentativo di far sorridere, ecco, perché naturalmente leggere che ci fa corrompere per un abbaccio, per un prosciutto, fa sorridere, non faccia determinare un processo di normalizzazione della corruzione, di banalizzazione della corruzione, e pensiamoci che continua a essere molto pericoloso, incide esattamente su quei settori in cui la criminalità organizzata vuol mettere le mani. No, ma assolutamente, infatti non bisogna banalizzare, c'è l'aspetto di colore, però Il sistema corruttivo è molto molto pervasivo ancora in tutti i livelli, e lei ci ha spiegato bene soprattutto in quali settori. Senta, oggi troverà sul Corriere della Sera Sabino Cassese, su Repubblica Tito Boeri, Roberto Perotti, no? Parlano di questo decreto semplificazione, e sostanzialmente le analisi sono abbastanza impietose, cioè ci riempiamo la bocca, dice sempre, sulla sburocratizzazione, semplificazione, in realtà non si fa granché, ma questo è l'aspetto politico. Ma davvero sburocratizzare servirebbe per diminuire la corruzione, oppure è proprio lì, voi magistrati spesso dite, che si annida, sulla semplificazione si annida il rischio di un abbassamento delle regole e quindi di una maggiore corruzione? Qual è il limite da tenere in equilibrio? Io credo che sia molto importante che le norme siano semplici, siano poche e siano semplici. Ecco, questo processo di semplificazione, oggi lo diceva bene l'articolo sul Corriere del professore Cassese, qui deve necessariamente tendere a ridurre questo panorama normativo. Cioè, è chiaro che se noi abbiamo un gran numero di norme e aumentiamo addirittura le norme, aumentiamo i livelli normativi, aumentiamo i livelli in cui il cittadino può incontrare la burocrazia, inevitabilmente questo porta a un rischio di corruzione maggiore, è proprio un fatto fisico di contatti probabilmente, o di di difficile comprensione della norma, il che può aprire a interpretazioni più o meno arbitrarie del funzionario che possono essere superate attraverso il pagamento della tangente. Ecco, da qui però a dire che ci possa essere un liberi tutti, naturalmente questo io credo che non sia possibile, anche perché ci sono dei profili ulteriori, quali quelli della concorrenza, che bisogna tutelare. Il punto di equilibrio potrebbe essere quello, cioè norme semplici che siano in grado di essere comprese dal cittadino e dal funzionario, mentre in realtà oggi assistiamo ad un fenomeno esattamente il contrario, cioè il moltiplicarsi dei livelli normativi, il moltiplicarsi dei livelli di controllo, e questo rischia davvero di poter ingenerare nuovamente fenomeni corruttivi o, perché forse ancora più grave, fenomeni di inefficienza della pubblica amministrazione che si riflettono sullo sviluppo del paese. Senta, dottor Corradino, abbiamo capito ormai tanto che c'è un mondo prima del Covid e uno dopo il Covid. Voi avete notato anche se una qualche correlazione del fenomeno corruttivo legato al coronavirus, oppure no, non c'è questo tipo di legame, cioè come si corrompeva prima, come si corrompe dopo, come si corrompe durante il lockdown? Ma al momento no, non credo che ci sia un'analisi di questo genere. Quello che si può dire è che dopo una fase in cui gli appalti erano cresciuti davvero in modo esponenziale, non dobbiamo dimenticarlo, gli appalti in questo momento alla fine del 2019 avevano toccato un volume nel nostro paese mai avuto, 170 miliardi, quindi erano cresciuti in modo esponenziale. C'è stata ovviamente una crisi disastrosa, nel mese di aprile c'è stato un abbattimento del 40%, quindi chiaramente questo ha comportato il venir meno del sistema economico. E naturalmente tutta la fase dell'emergenza è stata una fase in cui si è andati senza gare, in cui si sono utilizzati gli strumenti che l'ordinamento già consente per l'emergenza. Ecco, a me sembra, sì, naturalmente poi andiamo a vedere che cosa accadrà giudiziariamente e i casi giudiziari andranno valutati con calma, però io credo che il sistema abbia risposto bene, cioè nel giro di pochi giorni, quando si sono verificati dei casi patologici, immediatamente questi casi sono stati isolati. E io credo che questo sia importante perché dimostra la capacità di tenuta del sistema, cioè il sistema già oggi ha la capacità di reagire alle emergenze, il codice attualmente ha un sistema, e l'ho messo anche, vediamo la relazione dell'ANAC, ha già un sistema che consente di far fronte alle immediate esigenze di acquisizione dell'amministrazione, e laddove si è verificato un caso patologico, non dobbiamo dimenticarlo, è emerso nel giro di 3 giorni. E quindi io credo che questo sia un dato interessante, positivo. Allora, dottor Corradino, io la ringrazio. Devo dire, l'ANAC forse non l'abbiamo conosciuta perché era presidente, primo presidente Raffaele Cantone, adesso c'è un nuovo presidente che è Francesco Merloni. So che appunto lei lascerà, non so che cosa andrà a fare, forse tornerà a fare il magistrato, immagino, dottor Corradino. Insomma, è l'ultima settimana, è stata un'esperienza positiva questa all'ANAC, comunque. Assolutamente sì, è stata un'esperienza bellissima sia da un punto di vista personale, ma io credo che ci possono essere dei grandi margini anche di miglioramento, cioè nel senso che si può laicamente e serenamente pensare ad una modifica dell'ANAC, per esempio togliendo tutta una serie di poteri che nulla hanno a che fare con lo sviluppo del sistema, con la prevenzione della corruzione. L'ANAC è stata riempita di poteri che nulla hanno a che fare col suo core business, però noi non possiamo dimenticare, secondo me, che ci sono stati dei risultati importanti. Questo della crescita degli appalti, che non va dimenticato che l'Italia ha risalito 14 posizioni nella classifica della corruzione nel mondo, e soprattutto non possiamo dimenticare che l'OCSE, l'organizzazione internazionale che si occupa di questo settore, ha fatto delle indicazioni dell'ANAC le best practice mondiali, cioè in qualche modo il nostro paese ha esportato legalità, è stato detto a tutti i paesi del mondo di utilizzare le pratiche che ha indicato l'ANAC. Ecco, io credo che ci sono ampi spazi di riforma per l'ANAC, vanno modificate molte cose per rendere più fluida e più coerente con lo sviluppo del sistema, ma non va dimenticato tutto quello che è stato fatto, che è stato molto a mio parere. Grazie per essere stato qui, Michele Corradino, ripeto, dal 2014 componente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Noi andiamo un attimo in pubblicità, ci sono arrivati tantissimi messaggi, molti di voi sono incuriositi proprio sul tema TSO, ma com'è possibile davvero il trattamento sanitario obbligatorio per chi si rifiutasse, come l'imprenditore vicentino, di di farsi ricoverare, detto che dobbiamo anche dire, con tutto il comportamento certamente non prudente che ha avuto, in questo momento si trova anche, credo, in una situazione in cui la vita sua è in pericolo, no? È in terapia intensiva. In ogni caso, andiamo alla pubblicità. Arriva poi Leonardone Manera, qualcuno propone già un TSO per lui e per la sua zucchina, che ancora, mi pare, resista in frigorifero. Lo scopriremo tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Milan, grazie per l'interessamento. Non per niente siamo belli, sani e napoletani. I sudditi veneti godano nel sentire Zaia che impone dei TSO a chi è disubbediente. Milan, il trattamento sanitario obbligatorio già è in vigore per una forma grave di tubercolosi, non so scientificamente come si definisce, ma per questi soggetti malati di questa malattia infettiva, una forma di tubercolosi rara, è previsto il trattamento sanitario obbligatorio. Volevo dire a Milan che se uno va in giro essendo malato a infettare tutti gli altri, altro che TSO, cosa facciamo? Lo lasciamo andare in giro tranquillamente? Non vuoi ricoverarti? Ti ricoveriamo noi. TSO, appunto, si chiama così, TSO. Vabbè, Leonardo Manera, qualcuno ha proposto un TSO per lui e per la sua zucchina. Anzi, c'è un messaggio di un ascoltatore che dice: ma il povero Beniamino rischia di mangiarla quella zucchina. Vieni, allora, vieni, figliuolo, oggi buongiorno. Pasta alle zucchine. Buongiorno. Ce l'ho ancora la zucchina, buongiorno. Ma la mia domanda è: dove li mettiamo quelli a cui viene fatto il TSO? Li mettiamo negli ospedali psichiatrici? Certo. No, così no, andiamo, TSO, no, no, TSO nel senso si mutua quel termine. E in ospedale, in ospedale dove sono curati quelli per il Covid. Ho capito. Però in maniera... Ma anche a me suona un po' da Unione Sovietica, da Brezhnev. Non so, Brezhnev ha detto che devi curarti. Lo so anch'io che se uno ha il coronavirus deve curarsi. Sono un po' perplesso. Hanno già messo gli anni di carcere se violi appunto la quarantena. Adesso il TSO, per carità. Si va diffondendo questa idea un po' del controllo globale totale. No, poi io dico, se sono malattie che bene o male si possono tenere sotto controllo. Complottista. No, non sono complottista. Se sono malattie che si possono un po' tenere anche sotto controllo, anche curare, no? Con cortisone, eparina, eccetera, eccetera. Adesso non mi sembra neanche il caso di. No, però questo qui ha avuto un comportamento sicuramente sbagliato. Cioè, uno che va al pronto soccorso, certo, è infetto e rifiuta le cure. Probabilmente anche gli avranno detto sicuramente: guardi, va bene, però lei deve stare a casa in quarantena. Questo sarà andato via dicendo: sì sì, tranquilli, sto in quarantena. Ci sono già, immagino, dei reati previsti per chi attenta alla pubblica salute, no? Quindi, ma perché dobbiamo sempre aggiungere a quello che già esiste? Il tema è, certamente, se sopravvivrà intanto, risponderà a qualche tipologia di reato che ha commesso. Il tema è se bisogna in più impedirgli di poter fare questo reato, perché questo reato comporta anche il fatto che fa ammalare altre persone. E io non lo so, non ho un'idea, cioè mi spaventa questa idea del TSO, cioè l'obbligatorietà della cura. Secondo me va bene così, con il rischio che ogni tanto si trovi qualcuno che sbaglia. Mi rendo conto, ecco, che sarebbe più semplice per voi dire: no, mettiamo tutti in ospedale. A me fa molto Unione Sovietica. Se a voi piace l'Unione Sovietica, a me non posto tanto. Che tu sei un amante e un ammiratore della vecchia Unione Sovietica, quindi fondamentalmente sei favorevole. Ma si sa, io sono un marxista. Anzi, a proposito di marxista, ti faccio sentire l'inno del marxismo. Ecco, l'inno, vorrei chiedere a Peter Bescapè di far partire l'inno del marxismo. Lo conosciamo tutti, è inutile, l'avete cantata tutti nei karaoke, nelle scuole, in gruppo, con le schitarrate sulla spiaggia. Vai, l'inno del marxismo. Vai. Senti, conosci? Leonardo? Mai sentita? Cos'è? Sono mai i Pooh. Sentita? Ci sono i Pooh, secondo me sono i Pooh. Senti, l'inno del marxismo, senti. Imagine there's no heaven. C'è una canzone, smettila, una canzone, dai, una canzone come questa di John Lennon che invita a non avere proprietà, non avere un mondo senza religioni, un mondo senza barriere. Vabbè, è rimasta celebre l'uscita di Susanna Ceccardi, che adesso è candidata alla regione Toscana, e che chiese a una scuola di non cantare Imagine perché è una canzone marxista. Giustamente Parenzo e Telese gliel'hanno chiesta in onda. Senti Susanna Ceccardi, eh? Il sindaco il concetto, del nome, mio comune invitò le scuole a non cantare gli inni di Natale, a cantare Imagine, ma fu, diciamo, una considerazione anche letteraria. Lo stesso John Lennon disse che era una canzone di ispirazione marxista, e infatti le parole lo sono. Ma io, ecco, sai, ho una proposta. Leo risolve facile. Sì. Leo risolve facile anche in questo caso. La riscriviamo, caso. Cambiamo il testo. Allora, no. Sì, esatto, teniamo la musica e cambiamo il testo. Invece che dire senza proprietà privata, cioè con poca proprietà privata, insomma, la modifichiamo un po' in modo con la giusta, con la giusta proprietà, con la giusta proprietà privata, quella che è giusto avere ma non troppo. Sì. È così. E io lo rifarei così, in modo che possa essere accettata e accettabile da tutti. Quindi Leo risolve facile anche in questo caso. Basta chiedere ancora a me e io immediatamente. Susanna Ceccardi che fa l'esegesi del testo. Senti, senti cosa dice questo marxista di John Lennon, cosa diceva. Immagina un mondo senza religioni, senza confini, senza proprietà privata. Ho detto, qualcuno quel mondo non è che l'ha immaginato, l'ha realizzato. È una canzone, un mondo però. Sotto l'invasione dell'Unione Sovietica, senza religione, perché nessuno poteva professare la propria religione. Oggi torna l'Unione Sovietica. Torna l'Unione Sovietica. La proprietà privata era un delitto, per cui venivano uccise le persone. No, ragazzi, abbiamo abbattuto l'estate di Colombo, e perché non dobbiamo cambiare Imagine? Cioè, voglio dire, infatti, io sono favorevole. Tu sei favorevole. Volete, quindi come lo faresti? Cantaci un verso di la cantiamo così: The New Imagine, Leonardo Manera. Aspetta, non lo so, devo concentrarmi. La faccio per domani. La nuova Imagine, che sarebbe bellissimo. La proponi qui, vediamo se sarà un successo. Ma sai che è una buona idea? Magari vengo in settimana col chitarrista e la facciamo insieme. Sì. La facciamo insieme a venire. Stefano Melchiorri. Non potete aggregarvi, ma non puoi farlo neanche entrare, ma non si può. Ti faccio un TSO. Ma allora sto qui, ti obbligo, non lo faccio venire. Va bene. allora dai, andiamo a sentire informazioni sul traffico. È arrivato il momento di ripartire, e con più intelligenza di prima. L'ERP di Centro Software è lo strumento di innovazione di cui hai bisogno per gestire tutti i processi aziendali e ottenere risultati vincenti. Industria 4.0, CRM, Supply Chain, Logistica, Pianificazione, Gestione Finanziaria, e-commerce integrato con l'ERP e tutti i reparti in perfetto collegamento, anche in smart working. Centro Software, per ripartire ancora meglio di prima. Centro Software, i migliori ERP per le imprese italiane. Uno, nessuno, 100 Milan. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. Lo zucchino di Manera molto probabilmente avrà sviluppato delle muffe. È un atteggiamento irresponsabile, potrebbe danneggiare gli altri alimenti. Ma quali altri alimenti? C'ha il frigorifero, c'ha una brocca d'acqua oggi, senza il pesciolino rosso. No, oggi ho delle cose in frigorifero, c'è la zucchina, ma ci sono anche altre cose. Per esempio c'è una fetta di pancetta, un vassoio di cavolo fiore. Infettato. E anche del guanciale. Vassoio di cavolo fiore l'hai seconda. Preso per il capodanno di quest'anno. ti sei portato avanti per servirlo a Capodanno. Senti questo, questo è bellissimo di Massimo. Imagine è una canzone marxista moderna cantata da un occidentale con ricco conto in banca e casa a New York, tipo Saviano, insomma, ci ha messo insieme tutto, tutto, tutto. Va bene, questa Great Balls of Fire forse è un po' sovversiva per i tempi, andrebbe un po' riscritta. Effettivamente tutto va riscritto, ogni giorno tutto va riscritto, questa è la sostanza della vita, io la vedo così. Ecco, questa è la chiosa finale, tutto va riscritto giorno per giorno. Sì. Bene, sono pronto per partire. Vai. Vai. Qualcuno di voi probabilmente ricorderà un vecchio telefilm, una volta si definivano così, un vecchio telefilm che si chiamava Sulle strade di San Francisco. Era un poliziesco ambientato appunto sulle strade di San Francisco, dove poteva succedere di tutto, anche inseguimenti automobilistici a velocità forsennata. Oggi vorrei proporre ai creatori di Format un nuovo telefilm che potrebbe chiamarsi Sulle strade della Liguria. Sulle strade della Liguria è un telefilm dove, pur stando fermi in coda in attesa di giungere prima della fine del mondo a Varazze o a Rapallo, può però succedere di tutto. Infatti le code portano spesso ad accadimenti ben più significativi degli inseguimenti. Gli inseguimenti nei telefilm polizieschi possono portare solo a due conclusioni. I malviventi riescono a fuggire oppure vengono catturati dalle forze dell'ordine. Escludendo inseguimenti in Sulle strade della Liguria, non bisogna però sottovalutare quello che può succedere quando si sta per molto tempo chiusi in macchina, in coda. Ci sono molte possibilità, a partire da tipologia di persone che occupano l'autoveicolo. Direi fondamentalmente tre tipi: famiglie, coppie oppure single. Vediamo allora alcune ipotesi di soggetto per ciascuna di queste tre possibilità in Sulle strade della Liguria. Famiglie, diciamo una famiglia composta da padre, madre e due figli, un maschio e una femmina. Il maschio adolescente, la femmina magari leggermente più piccola. La famiglia è diretta da Milano a Varazze. Fino a Masone il viaggio procede normalmente, con il padre che ascolta la radio, la madre che guarda il telefono, il figlio adolescente con rap o trap in cuffia e la figlia piccola che già da 3 minuti dopo la partenza chiede ai genitori quanto manca per arrivare. A Masone però cominciano le code. Nonostante l'aria condizionata, l'atmosfera in macchina si fa pesante, il padre sbuffa. La madre fa notare che era meglio andare a Marina di Pietrasanta o a Forte dei Marmi, mete che il padre ha voluto evitare per spendere un po' meno. La madre lo accusa più o meno velatamente di essere un taccagno e di aver rovinato per questo la gita. Il figlio maschio adolescente ride dai litigi tra i genitori, la figlia piccola, non avendo più nessuno che le dà retta, se la fa addosso. A questo punto il dramma sulle strade della Liguria. Si fermano per soccorrere la figlia, ma padre e madre, esasperati al figlio adolescente, lo abbandonano sul ciglio della strada e ripartono. Poi però la madre ha un improvviso senso di colpa e chiama l'avvocato per separarsi dal marito e soccorrere il figlio. La resa dei conti si consuma alla prima area di servizio, dove il padre, per la rabbia, ingurgita 10 rustichelle e un bufalino. L'episodio si chiude con l'ambulanza che cerca un varco in autostrada per soccorrere il malcapitato, lasciando tutti gli spettatori con una tremenda suspense. Tipo 2, coppia che va Rapallo. Inizialmente il viaggio è tutto rose e fiori, può essere un simpatico weekend di mare e amore, ma quando sulla A7 cominciano le code, sia lui che lei, per ingannare il tempo, cominciano reciprocamente a parlare ciascuno dei propri ex. E proprio lì, in coda, nella macchina che precede o segue quella dei due protagonisti, si palesa uno di quegli ex. Sopravviverà la coppia a questa tentazione? È meglio di Temptation Island. Il seguito nella prossima puntata. L'ultimo caso, il single che vuole andare a giocare tutto al casinò di Sanremo prima di abbandonare le speranze di una vita felice. Anche per lui, dopo Masone, cominciano le code. E allora esce dall'autostrada proprio lì, a Masone, dove conosce una splendida ragazza, ma dopo pochi attimi, lei, la ragazza, si smarrisce nella nebbia del posto, presente anche ad agosto, e il nostro eroe passa il resto della vita a cercarla, immerso nella nebbia. Ce la farà? Non ce la farà? È quello che vedremo nel prossimo episodio di Sulle strade della Liguria. Non male, mitico, mitologico, mitologico. Giustamente però molti dicono, ma scusate, il lockdown non circolava la battuta come sogno un bel ingorgo in autostrada, essere bloccato, il traffico, ecco, accontentatevi adesso cari ascoltatori, dice un nostro ascoltatore per l'appunto. Però voglio farvi vedere, devo dire, Leonardo, sui WhatsApp tutti a favore, quasi tutti a favore del TSO. Dei TSO. Cioè, TSO, questo è stupendo, non mi fido degli italiani, voglio uno Stato che curi gli infetti. Ma ragazzi, ma anche, l'Unione Sovietica, ma anche lui, anche quel signore Sovietica italiano, non si fidava della libertà dei cittadini e faceva, provvedeva a tutto lo Stato, lo Stato. È sempre il solito discorso in Italia, che invece di incentivare la responsabilità si tende, esatto, un po' di più si reprime, a si reprime. Adesso è lo Stato o a promettere di reprimere, perché poi ci sono sempre mille scappatoie, insomma. Lo Stato che poi non è, come dire, l'ente più retto e moralmente giusto, che rispetta le regole dalla A alla Z, però lo Stato dovrebbe controllarci. Allora, signori, però vi faccio sentire quello che è successo ieri. Salvini ha un comizio, si avvicina a un quindicenne e gli dà dell'omofobo e del fascista. Il problema è che poi la notizia è diventata che questo quindicenne è il figlio di Selvaggio Lucarelli, e quindi qui apriti cielo, dibattitone in rete. Vai, Alpino. Volevo ringraziarla per il suo governo molto omofobo, razzista. Omofobo, razzista. E concordo sul fatto che fascista, sicuramente... Fascista. No, aspetta, non c'è la sfida. Sto parlando. Va bene, vai. Volevo dirle che è molto razzista come persona. Grazie. Che vuole aiutare. Ragazzi, ecco, vabbè, e fin qui c'è un gran cliché, insomma, Salvini che va a un comizio e qualche giovane, in questo caso il figlio della Lucarelli, che sta vicino. Io trovo, francamente, in tutto questo, sempre a proposito dello Stato, incredibile l'intervento della polizia, che in maniera tranquilla, mica violenta, insomma, subito allontana e identifica la persona. Ma cosa ha detto? Ha detto qualcosa che sicuramente è non condivisibile per chi è leghista, è sbagliato, ma mica l'ha aggredito, mica l'ha insultato, mica... Certo, è andato un po' a rompere le palle in un comizio, sicuramente non è molto gradita la presenza, se è un comizio con, con i tuoi come dire, seguaci, arriva uno a dirti sei un razzista, va bene, ci sta. Ma non ho capito perché deve essere identificato dalla polizia. Comunque, secondo me bisognava fargli il TSO subito. Vabbè, anche a lui. Ecco, TSO per tutti, più TSO per tutti. Se sei contro Salvini, però potresti dirlo. Nel momento in cui hai firmato il contratto, TSO, potevi dichiararlo. No, TSO al ragazzo che è andato lì a parlare con Salvini. TSO subito. Cara Selvaggia Lucarelli, lo trovi in una struttura ospedaliera, il tuo ragazzo, Leon. Vabbè, andiamo al giornale radio. Manera fantastico. Il segnale orario vi è offerto da Logica, spazio, tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Uno, nessuno, 100 Milan. Oh Milan, me la dici una cosa, ma a te rompe le scatole se qualcuno ti fuma una sigaretta accanto all'aria aperta? E poi va bene che una persona malata di Covid, certificata che è malata, vada a giro a infettare così chi gli pare, a destra manca, ma che c'è nella testa, l'anatrine? Milan, ti piacerebbe fare il TSO a Elisabetta, vero? Caccia fuori Elisabetta. Secondo me la zucchina di Manera ormai assomiglia di più a uno Sharpei. Avete presente quei cani zeppi di rughe? Ecco, è lì una povera zucchina piena di rughe, abbandonata nel frigo. Che amarezza. Ehi, bulletti, l'Italia non è la Svezia, ricordiamocelo. Bisogna castigarli gli italiani, ma castigarli di brutto. Eccolo, oh, perfetto. Questo ascoltatore e questa ascoltatrice è perfetta. Siccome gli italiani sono incapaci, bisogna castigarli. Senti anche come Leonardo. Vorrei dire una cosa, caro Leonardo Manera. Smettila di fare, poi ci dici che rumore fai. L'ascoltatore, il primo ascoltatore, sostiene che io abbia detto che a me va bene che uno va in giro. Perché se non dici che il TSO è giusto, stai sostenendo per lui, ascoltatore, che io sono quasi felice che uno vada in giro a contagiare le persone. No! Ho detto che c'è un reato penale, c'è un reato di cui deve rispondere questa persona, mi basta così, è la terribile conseguenza della straordinaria bellezza della libertà. Ok? La libertà è stupenda, è straordinaria, è bellissima. Purtroppo l'utilizzo della libertà porta al fatto che dei cretini la utilizzino male, ma è stupenda la libertà. Non la metto in discussione con un TSO. Faccio delle leggi e punisco i comportamenti irregolari, i comportamenti fuori dalle regole, e accetto che uno utilizzi la libertà da cretino, come in questo modo. È il rischio da correre se si vuole amare la libertà. Se no, secondo me TSO, non sei mica stato TSO tanto permanente. Educato. Non sei mica stato tanto educato. Cioè, l'importante è l'educazione. Prima di tutto si possono esprimere anche le cose in modo più sobrio. Ha ragione, Elenio Mariotti, la nostra sordina, hai ragione, sono stato poco educato. Non è mica bello che te insulti in modo pesante quelli che non la pensano mica come te. Non sono stato molto sardina, effettivamente. Cioè, capisci, la vita è come un bicchiere di latte, no? C'è chi lo beve senza niente e c'è chi ci mette dentro i biscotti. E te devi accettare sia il latte bianco che anche quello macchiato e anche chi ci mette dentro i biscotti. Però che sempre però con poi educazione. Si rompono. Fa tutte le briciole, i biscottini. Si rompono se non li tratti in modo abbastanza educato. Sì. Io la penso così. Comunque, io non so, no, lo ridico per l'ascoltatore, non sono contento se uno va in giro a diffondere il coronavirus, però siamo a questa follia che mi si dà del contento e mi sta bene. No, non mi sta bene, non mi sta neanche bene, e non credo che la soluzione sia un trattamento sanitario obbligatorio. In Italia mettiamo 8.000 regole, poi non le rispettiamo manco una. Cioè, questo signore risponderà di un reato, cioè, credo, diceva Speranza ieri in un'intervista, fino a 3 anni di carcere. Questo è, se sopravvivrà. E dopodiché, che dobbiamo fare? Va bene. Ma poi quelli che dicono gli italiani sono sono italiani anche loro, quelli che dicono gli italiani sono. Si immagina sempre che chi dice così abbia una prevalenza morale, una dirittura morale diversa. Almeno su questo, perché sto battagliando privatamente anche con la mia amica Chiaretta sulla chat, almeno su questo sono abbastanza d'accordo con Chiaretta e con l'ascoltatrice, cioè che noi abbiamo un livello di educazione civica un pochino, un filino più bassa di quella degli svedesi, forse questo è assolutamente condivisibile. Che la soluzione sia per questo bastonare, sanzionare, colpire, ma poi ripeto, fatto dallo Stato, lo Stato che è l'ente che per primo non rispetta le regole, quindi non è che è il moralizzatore lo Stato. Dai. Marco dalla provincia di Pavia, Marco. Pronto? Eccoci. Ciao Milan. Vai Marco. Ciao Milan, mi senti? Sì. Sì, ciao, scusami. Volevo intervenire appunto su questo argomento del TSO, sono sempre d'accordo con te, però in questo caso, a parte il sottoscritto, bene. Migliaia di persone. No, il ragionamento è molto semplice. All'inizio hanno bloccato e ci hanno tenuto in casa con lo spauracchio della sanzione penale, no? Sì. Non so se ti ricordi, per diverse settimane. Come no? Certo, cioè, non ci hanno messo in carcere, non è che ci mettevano in carcere. Non ci hanno messo in carcere, però non hanno fatto i fili spinati. Non hanno messo il filo spinato intorno, hanno detto si sta a casa, chi sbaglia e chi viola le regole, sbaglia, ci sono le sanzioni. Sanzione penale, e dopo alcune settimane è stata, ma questo per quale presupposto? Perché chiaramente c'è un'emergenza sanitaria, dobbiamo tutelare la salute delle persone. Ci siamo. Dopo l'hanno trasformata in sanzione amministrativa, ci siamo alcune settimane dopo, e adesso la gente va in giro, esce e si può anche permettere di spanteganare il virus dove gli pare piace. No, cioè non sono d'accordo. Poi non mi hanno dato neanche la possibilità. Ma perché spanteganare? Cosa vuol dire spanteganare il virus? Spanteganare, ma cosa vuol dire stare a casa per tutta la vita? No. Ma dove stare tutta la vita a casa? No, tu devi essere in grado di non dare il virus agli altri, quindi devi essere sano. Se ti dico che sei malato, devi stare a casa. Se non stai a casa, io Stato devo tenerti a casa. Non c'è niente da fare. Come ha fatto col lockdown, cioè stai a casa, se esci ti sanziono, non è che ti metto un filo spinato come in un campo di concentramento a dire adesso stai lì e non puoi evadere. C'è il penale, il problema è quello che sto dicendo io, che c'è il penale, a quando vai in galera passano almeno 2 anni. Ci siamo, ma siccome qui è un'emergenza sanitaria e devo prendere, chiamalo come vuoi, chiamalo TSO, chiamalo come vuoi, TSO. Devo prendere e ti devo mettere in grado di non nuocere, perché tu sei non contagioso. A me, ragazzi, a me Marco, a te piace così, a me spaventa terribilmente, io non so cosa dire, a me spaventa terribilmente, poi va bene, accetto, devo dire che la maggior parte sono tutti per il TSO, gli ascoltatori, perché è la soluzione più semplice, sì. Brutale, no, autoritaria, ma semplice. La maggior parte degli italiani si è comportata molto bene durante il lockdown, quindi veramente casi isolati e introdurre il TSO in generale può aprire forse una strada che sarebbe meglio. Certo. Ma poi quello che diceva Marco ha ragione, quello quando ha detto sul lockdown. Cosa hanno fatto sul lockdown? Ha detto state a casa, chi viola questa disposizione subirà delle conseguenze anche penali. Punto. Cioè questo è il rapporto giusto, come nel caso di questa persona, se sei infetto e ti rifiuti e porti il virus in giro, rischi fino a 3 anni di carcere. Io stabilisco questa norma e poi c'è la libertà, che piaccia o no, di rispettarla o meno, e se io non la rispetto pago le conseguenze andando anche in galera. Ma cioè questo è, secondo me, è il rapporto che mi piace tra uno Stato che stabilisce delle regole e che se uno le rispetta incorre in sanzioni, che siano amministrative o penali. Punto. Però non è che posso limitare la libertà. A me piace così, però magari è sbagliato. Sentiamo. Bravo, Alessandro. Fai il liberale. Sai quanti voti aveva il Partito Liberale quando c'era ancora? Forse con la esigua minoranza. Dopo una lo zero. Minoranza. No, dopo lo zero no. 2-3-4%. Sì, certo. In Italia, certo. Essere liberali Zanone. Non paga mai. Zanone, altissimo. Non altissimo. Altissimo. Renato, altissimo. Senti sempre già che nome altissimo. Cioè già il nome, nomen altissimo. Ah, dai, allora, il traffico. Poi Alessandro dalla provincia di Chieti. Il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, ricordati che stiamo raccogliendo firme per il nuovo partito Liberate la Zucchina, Liberate la Zucchina. This world keeps spinning. Sì, ma se fai una legge dove punisci il comportamento quando ormai uno è già infettato, magari ha ammazzato le persone, e se tu invece sai benissimo che questo infettato gli può evitare di uscire ed uccidere le persone, penso che la cosa migliore sia evitargli di uscire ed uccidere le persone, non punirlo dopo. Cosa vai a raccontare dopo ai parenti di quelli morti? Vabbè, cioè, adesso si è svegliata e si è aggiunta anche Saretta nella mia mitica chat a essere a favore del TSO, praticamente come l'ascoltatore, praticamente come tutti. Va bene, io mi ritiro in bieca minoranza, porto con me Manera, perché credo, almeno non fai il volta sì, campana se la pensi come me. No, sono d'accordo, se però vengo isolato in un buon posto, vengo con te se è un posto dignitoso con no, vieni con me, nel senso che ci ritiriamo in quanto netta minoranza, sventoliamo la nostra bandierina bianca in modo che non ci fucilino quando ci prendono, perché insomma magari è stabilito così dall'ordine costituito che andiamo fucilati sulla prima esposti sulla prima via pubblica, e basta, abbiamo perso Leonardo. Adesso non far finta di non essere con me, tu sei contro il TSO, hai perso come me, questo è il dato di fatto triste. Beh, la trasmissione dice uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan, quindi io un po' mi defilo con Leonardo Manero. Sentiamo, però sentiamo Alessandro dalla provincia di Chieti, se anche lui spara su due uomini ormai finiti. Prego Alessandro. Ciao, eccoci. Buongiorno. Senti, io so, sai che per me voi siete simpaticissimi, molto intelligenti, fate bene così. Comunque stavo sentendo la prima parte dove parlavate di corruzione. Sì. Parlavamo con la mia famiglia proprio ieri di questi non rassegnati. L'unica cosa da fare, a parte il fatto che siamo molto intelligenti, uno dei popoli più intelligenti e capaci del mondo, che sono nato all'estero, e lo so, sì. E quando ci è capitata sta cosa sopra le spalle, chissà da dove, siamo stati capaci anche di uscirne abbastanza egregiamente, come diceva Manera, no, lascia perdere. L'Italia, ecco, cercare di non rassegnarsi per dare l'esempio al futuro, alle nuove generazioni, tipo i miei figli, i vostri figli, di questa rassegnazione del tanto siamo tutti corrotti, siamo tutti la cosa è così, questo porta alla distruzione di questo popolo, capisci quello che voglio dire? Questo mi sembra un discorso fiero. Alessandro vuole portare avanti un discorso fiero, un po' patriottico anche. L'Italia è un grande paese. Chiaro, e questa è la cosa importante. Per uno che è nato all'estero e che ha amato la terra e è venuto qua apposta, perché la amava, perché credeva in questa terra, che l'italiano si comporti a livello anche governativo, anche da presidenti politici che comandano questo paese, di far capire alla gente che tanto oramai ce l'abbiamo nel DNA questa cosa. Guarda, è qualcosa che fa rabbrividire la pelle per chi sta fuori. Alessandro, insomma, porta avanti il fiero patriottismo di essere italiani, Alessandro, va bene, no? Ma noi ti ringraziamo per questo tuo intervento, l'Italia e gli italiani. Allora, teniamo un po' da parte la questione, ma se volete TSO, ne parliamo, eccetera. Adesso vogliamo raccontare un'esperienza di scuola, lo facciamo con un dirigente scolastico di un istituto professionale. Io vorrei capire però, prima di nominarlo, perché credo che sia intitolato al partigiano che è italiano, Giancarlo Pucher Passavalli, e quindi è Pucher o Puecher all'italiana. Buongiorno al preside Emanuele Contu, che ci dirà tutto. Buongiorno preside Contu. Buongiorno Milan, buongiorno Manera. Si chiama Puecher, almeno Puecher. Noi lo chiamiamo così. Certo, perché era italiano, partigiano, esatto. Quindi Giancarlo Pucher Passavalli, però io l'ho visto così, ho detto magari aveva origini tedesche. Il Puecher Olivetti di Rho. Siamo in provincia di Milano. Allora, che cosa c'è di più bello per uno che esce da un istituto professionale di trovare subito lavoro? E questo ovviamente è l'obiettivo. Voi avete trovato una formula per, non immagino a tutti, ma a alcuni studenti, farli diplomare e proprio farli accompagnare direttamente nelle aziende dove devono poi iniziare un percorso professionale, no? Mi pare di capire. Sì, esattamente, si tratta dell'apprendistato di primo livello che non abbiamo inventato noi, ovviamente è un possibile percorso previsto dagli ordinamenti, non praticatissimo, e che però ci ha consentito appunto quest'anno di portare i primi 5 lavoratori diplomati al termine del loro percorso di studi, avendo già appunto un contratto a tutti gli effetti operante già da diverso tempo. Quindi questi studenti quanti sono e che cosa hanno fatto? Cosa avete fatto in concreto? Ce lo spiego. Allora, in concreto l'apprendistato funziona così. Si trova un'azienda con la quale avviare una partnership. Questa azienda fondamentalmente, assieme alla scuola, completa la formazione dello studente. Lo assume con un contratto di lavoro di apprendistato a tutti gli effetti. E lo studente svolge una parte della sua settimana in azienda lavorando, retribuito, quindi non è come l'alternanza scuola-lavoro una dimensione diversa dove non c'è una retribuzione, non c'è un contratto di lavoro. Una parte della settimana viene a scuola per completare quegli apprendimenti che non è possibile invece acquisire direttamente sul posto di lavoro. Perché si dice molto alternanza scuola-lavoro, ma se c'è una cosa che secondo molti ancora deve essere perfezionata è il fatto che sulla carta è tutto perfetto, ma poi il mondo delle aziende è là e il mondo della scuola è qua, o viceversa, cioè non c'è un contatto vero. Invece in questo caso anche quindi gli imprenditori vengono a scuola e hanno seguito fino alla maturità questi ragazzi. Assolutamente sì, infatti una delle cose devo dire più belle è stata che quest'anno, sapete che con le varie limitazioni ogni candidato poteva portare una sola persona ad accompagnarlo al colloquio finale dell'esame di Stato, e i nostri 5 candidati apprendisti si sono portati dietro il datore di lavoro invece di portarsi la mamma, il papà o la fidanzata. Esatto. Credimi, esatto. Leonardo, proiettati subito sul mondo del lavoro, i genitori stiano a casa durante quindi l'esame. Gli studenti l'hanno presa bene, erano contenti di cominciare subito a lavorare. Io per esempio non sarei stato così felice, però lo so, esatto. Ma perché lei, Manera, probabilmente ha fatto percorsi di studio molto diversi da quelli dei miei studenti. Voi dovete tenere diciamo conto travagliati, che la nostra... ecco, più che diversi, travagliati. No, lasci, ma lasci, no, di Manera o quelli dei miei studenti? No, no, no, quelli di Manera, per carità. Ma anche quelli Manera, dei miei studenti, vi dico la verità. La nostra, il nostro è un tipo di scuola che, come dire, accoglie e raccoglie un'utenza molto complicata. Noi spesso abbiamo ragazzi che in prima e in seconda sono già maggiorenni. E l'opportunità proprio di iniziare a lavorare quando si è ancora studenti e comunque portare a termine il percorso di studi è fondamentale per questi ragazzi, perché spesso loro si trovano nell'imbarazzo oggettivo di dire: io ho 19, ho 20 anni e sono ancora che sono in terza superiore, e quindi vogliono un po' recuperare il tempo perduto. Devo dire che questa modalità di apprendistato serve anche proprio a dar loro l'opportunità di recuperare un pochino del tempo perduto, inserendosi nel mondo del lavoro, ma senza perdere anche la strada della scuola. Questo mi sembra l'aspetto più, più interessante, tutto sommato. Certo, certo. Per esempio, ci dite una cosa che si impara nel vostro istituto, una cosa che si impara a fare proprio materialmente? Ah, la lista è lunghissima, si impara di tutto, dalle saldature a confezionare abiti bellissimi, perché abbiamo anche un indirizzo moda. Si imparerà molto presto a fare gli assistenti alla poltrona per i dentisti, perché abbiamo un indirizzo sociosanitario in cui metteremo anche questo tipo di possibilità. Guardate, abbiamo un'offerta formativa molto molto ampia, quindi che bello, cioè quell'idea che ti permette a sera di dire: ho fatto qualcosa. Sai che Leonardo, questo è il mio grande cruccio, cioè finisco la giornata e dico: anche oggi non ho creato nulla, non ho neanche preso in mano una brugola, cioè non ho avvitato un bullone, non ho creato un vestito, non ho fatto l'assistente dentista a nessuno. Si possono imparare anche cose diverse e contemporaneamente, cioè uno può imparare a saldare e anche a fare l'assistenza alla poltrona, così se c'è da fare un'otturazione particolare utilizza le due competenze. Oddio, spero che di non formare nessuno a usare il saldatore sui denti dei pazienti, perché potrebbe essere un po' controproducente, diciamo. È un'otturazione definitiva, secondo me funziona bene. Secondo Manera funziona, vai. Ti mandiamo a te da quel dentista, così. No, ma Presi, la ringraziamo, è stato molto simpatico anche oltre che a raccontarci praticamente come avviene questa vicenda. Emanuele Contu, Presi dall'Istituto Professionale Opoecher Olivetti di Rho. Oh, continua questa disfida, ti voglio leggere sì, questo messaggio, ma io, ecco, l'ho perso, vediamo se lo ritrovo. Ma io non so se è ironico, cioè man mano che andavo avanti ho detto: sarà ironico, perché sarà esagerato. Scrive questo ascoltatore: ma benedetta miseria, ma quali e quanti sono i morti provocati da questo, vabbè, non dico neanche come lo qualifica, che se n'è andato in giro ad ammazzare la gente infettandola. Questo imprenditore di Vicenza, noi non sappiamo quante persone ha infettato, magari due, tre, magari in maniera non grave, non lo sappiamo. Forse tanti quanti se ne sono infettati dopo i festeggiamenti per la Coppa Italia al Napoli? Mi risulta zero. Non c'è stato 15 giorni dopo questa festa della Coppa Italia, o forse tanti quanti se ne sono infettati dopo i vari happy hour e movida in giro per l'Italia? Questa è colpa tua, Manera, che vai in giro a fare gli aperitivi, o per tutti gli assombramenti al mare. Ovvio che dopo questa ecatombe il TSO è il minimo, prima del gulag. Spero che sia ironico questo messaggio, perché se è davvero vero, se è davvero vero, cioè io sono andato a fare diversi aperitivi, quindi secondo questo ascoltatore per traslato ho sulla coscienza morti ammazzati. Sì. Un'ecatombe. Ma possiamo, anche dire a tutti questi giustizialisti che insomma. Ricordo la che colpa Chiaretta, è... scusami, che proponeva il TSO, sì, era quella che ha fatto un aperitivo con me, con una vecchia che è passata dicendo: ammazzateci tutti, ammazzateci, allora, a bere l'aperitivo, ammazzateci. Ecco. Io ricorderei anche tutti i giustizialisti che secondo me anche la comunicazione non è stata sempre così precisa, no? A partire dall'utilizzo delle mascherine, che prima erano, non servivano, poi servivano, poi non si sa, adesso sono obbligatorie. Insomma, forse certi comportamenti sono dovuti anche al fatto che la comunicazione è stata un po' così imprecisa, ecco, per usare un eufemismo. Sì. Quindi molti italiani si sono comportati secondo la propria coscienza. Tra l'altro sai che ci sono molti medici che ti dicono che l'utilizzo della mascherina, per esempio all'aperto, adesso rischia di essere nociva, perché lì si annidano i batteri, lì non si respira bene, respiri la tua anidride carbonica, soprattutto se fai attività sportiva, l'ossigeno non entra bene nei polmoni, e poi soprattutto per i batteri che si accumulano. Ma se tu lo fai dire a qualcuno, spiegando, ascoltando, qualcuno che ha studiato, basta. Ecco, passi subito per quello che vuoi, terrorizzare, demolire l'uso della mascherina, distruggere, niente, siamo un paese così che non riesce ad approfondire un po' le cose minimamente. Meno male che c'è la borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Milan, smettila di polemizzare, c'è già una sentenza passata in giudicato di condanna a chi, sapendo di essere portatore del virus dell'AIDS, andava in giro a copulare a destra manca infischiandosene del contagio che procurava alle sue compagne di letto. Smettila di polemizzare. Io sono assolutamente d'accordo con Alessandro Milan sul discorso del TSO. Quanto ci vorrà perché obblighino un TSO a chi, per esempio, manifesta contro il governo oppure non la pensa come il pensiero unico vorrebbe imporci? Alessandro da Udine. Grazie Alessandro, il primo ascoltatore. Oh, ma io fatico, ed è un problema, Leonardo, a questo punto mio, solo mio, a spiegarmi e a farmi capire. È esattamente come ha detto l'ascoltatore. C'è stato quel caso di quello che ha portato in giro l'AIDS, ha infettato le donne volutamente, eccetera. C'è un processo. Quando viene preso, risponde penalmente di quello che ha fatto. È esattamente quello che sto dicendo io. Questo imprenditore, se ha sbagliato, come ha sbagliato, risponderà penalmente per quello che ha fatto. Lo sto dicendo da tutta la trasmissione. Sto dicendo semplicemente che sono contrario a un TSO. Guarda, l'ascoltatore che ci scrive questo: capisco il punto di vista, ma questo signore ha rifiutato le cure, basta togliere la possibilità di firmare per uscire dall'ospedale se sei ricoverato. Ragazzi, articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana: nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Ma vogliamo stracciare la Costituzione italiana in diretta? Stracciamo la Costituzione italiana in diretta, va bene. Io non sto dicendo che non deve rispondere penalmente, deve rispondere penalmente, ma c'è già una legge. Sto dicendo che mi spaventa l'idea del TSO. Ah, una legge nuova è sempre più bella di una legge vecchia. Ah, beh, è più, sì, però, Leonardo, abbiamo il sindaco Sossano, provincia di Vicenza, Enrico Grandis. Sindaco, buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a voi, perché... buongiorno ai radioascoltatori. Leggevo ieri su Repubblica, Sossano, che è il paese, insomma, se ho capito bene, dove c'è questo imprenditore, non si parla d'altro, come è ovvio. Allora glielo chiedo a lei da sindaco, avrebbe firmato, visto che la firma spetta al sindaco per un TSO, avrebbe firmato per un TSO, secondo lei è giusto? Io in questo caso specifico anche sì. Diciamo sì, che i fatti sono stati un po' mistificati e quindi adesso ci troviamo a discutere della redazione giornalistica. Io sono venuto a sapere della vicenda nello specifico il martedì, nel senso che come è successo con gli altri casi precedenti, c'è un monitoraggio e una sorveglianza attiva da parte del 2SL. E solo alla volta di martedì è stato richiesto il mio intervento specifico, e così ho fatto, nel senso che ho raggiunto l'imprenditore di persona e ho avuto questo appunto colloquio direttamente con lui. Poi esatto, perché questo... lei l'ha sentito questo imprenditore, cioè vi siete parlati, ma a che punto vi siete parlati, cioè in quale momento, nel momento in cui lui ha capito che stava talmente male e doveva andare in ospedale? Probabilmente sì, adesso qua c'è stata, come al solito, ripeto, la procedura è stata la stessa delle settimane dei mesi precedenti, ovvero c'è sempre questo intervento da parte sia dell'autorità sanitaria locale, cioè il sindaco, l'ULS, in qualche caso abbiamo interpellato anche le forze dell'ordine, per cui diciamo che il colloquio, la collaborazione fra istituzioni è sempre presente e anche in questo caso. E poi a dirle se sono stato io a convincerlo, se era già convinto lui, se è stata l'azione appunto dell'ufficio dell'ULS insieme con quella del sindaco e la volontà propria, adesso questo facciamo fatica. Senta, ma sindaco, questo ovviamente la persona sta in terapia intensiva, ma dovesse migliorare, dovesse salvarsi, che cosa rischia penalmente? A questo non lo so, nel senso che la procura ha aperto un fascicolo e stanno valutando, stanno raccogliendo informazioni. Ieri mattina l'ho passata presso la stazione dei carabinieri e ho rilasciato appunto le mie dichiarazioni e poi sarà... Deciderà sarà la magistratura, certo. La magistratura che deciderà come agire. Ma lei ha capito come mai questa persona, pur sapendo che era positiva, ha rifiutato il ricovero? Cioè sulla base di che cosa? La base di dire, ma a me il virus non fa niente? No, assolutamente. A me l'imprenditore, la persona, ha fornito una sua versione e è un colloquio riservato, non intendo divulgarlo, però voglio dire, dal punto di vista pratico, cosa mi interessa? Mi interessa che effettivamente nel momento in cui è stata riscontrata la positività non abbia scorazzato in giro per il paese. Questo non l'ha fatto? Non è vero che da positivo è andato a un funerale, è andato a un compleanno sapendo di essere positivo? Guardi, io ero all'estero, sono ritornato lunedì in serata e la partecipazione al funerale, alla festa, mi risulta che sia avvenuta nella giornata di sabato. E lui quando ha saputo di essere positivo, se si può sapere, dopo? Da comunicazione dell'ULS non dico niente di nuovo, la domenica, la positività la domenica è stata riscontrata nella giornata di domenica. Non so quindi, le condizioni di salute che aveva sabato. Sì, forse aveva la febbre, però, forse aveva la febbre, ecco, è andato con la febbre, ma senza... Dicono di sì. Io ero a 1000 chilometri di distanza, non lo so. E a parte che non sono un medico, non ho competenza per misurare... No, certo, sindaco, ma è perché ci aiuta a capire, Leo. Quindi, ipoteticamente, potrebbe essere anche tutto un dibattito sul nulla questo, se lui l'ha saputo dopo. Però aveva la febbre. Se aveva la febbre, se uno ha la febbre deve stare a casa. Se uno ha la febbre in questi momenti, se ha la febbre ha il dovere di stare a casa. Questo. Aggiungo che non conosco personalmente l'imprenditore, nel senso ho avuto la conoscenza, è successa 2 mesi fa per un'occasione edilizia. Ne ho sempre sentito parlare di zona, però personalmente non lo conoscevo. E l'ho visto in vita mia 2 volte, per cui non posso neanche giudicare, non mi azzardo neanche a dare giudizi sul comportamento, sull'atteggiamento che ha avuto. E voglio dire, qualcuno ci ha parlato, l'ha visto prima di me, adesso c'è anche questo fascicolo aperto dalla procura, vedremo poi come va a finire. Comunque il sindaco ci sta dicendo che lui per il TSO sarebbe stato anche favorevole a firmare il TSO in questo caso. Io ho rilasciato ieri un'intervista al vostro collega Marco Assappa, al quotidiano Open, in cui appunto ribadivo questa mia convinzione, perché ci è già successo personalmente un caso nello specifico che era stato segnalato una persona positiva ormai guarita, nel senso che la diagnosi se l'era fatta da solo, stava bene, e era stato segnalato appunto che non rispettava ancora isolamento domiciliare, c'era stato qualche giorno di ritardo nel tampone di riscontro, per cui ecco. E quindi voglio dire, noi non abbiamo armi per controllare questi effetti, per cui in questo caso un'azione di forza, secondo me, sarebbe doverosa. un'azione di forza doverosa. Va bene, sindaco, la ringraziamo per essere stato con noi, sindaco di Sossano. Leo, no, ho mutolito Leo, basta, si è arrabbiato su questa storia della febbre. Se tu hai 38 di febbre mica vai in radio, per dire, no? È stato un comportamento imprudente sicuramente andare in giro con la febbre. Bisogna verificare innanzitutto se aveva la febbre, non è chiaro, sicuramente lo ha saputo il giorno dopo di essere, a quanto pare, quando ha dato il sindaco, l'ha saputo il giorno dopo di essere positivo. Sì, sul tampone, sulla febbre le testimonianze, diciamo, convergono tutte a dire che è andato a queste feste ed era con 38, 38 e mezzo, ecco, quello sicuramente non si deve fare, cioè è stato, come dire, poi puoi avere una febbre per altri motivi, ma nel dubbio se c'è la febbre, la prima regola è startene a casa. In ogni caso, dai, andiamo al traffico. Alessandro, non parti? No che non parto. Sto aspettando che suoni l'allarme di casa, metterà in fuga due ladri. Guarda, due ladri! Come facevi a saperlo? Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipolsai. Sono i numeri uno nell'assicurazione danni e nell'innovazione, come Unibox Casa, che ti protegge da furti, incendi e allagamenti e controlli tutto con l'app. Scegli il futuro. Unipolsai, sempre un passo avanti. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo. Fai subito un preventivo su unipolsai.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Qui parla il Fronte Nazionale di Liberazione Zucchine. Il messaggio è: il pipistrello è sul balcone. Ripeto, il pipistrello è sul balcone. Viva la libertà! Sì, ma se proprio non muore il TSO, lo devi isolare. Non lo puoi lasciare in giro a infettare gli altri, se no toglie la libertà agli altri. È chiaro, e immagino che gli avranno detto: va bene, lei non vuole farsi ricoverare, vada e stia a casa, cosa che peraltro ha fatto da quel momento, dal momento in cui ha saputo di essere positivo. È un pochino diversa, insomma, da come l'ha raccontata. Certamente pare che sia andato in giro con la febbre, e questo è stato un comportamento assolutamente sbagliato. Ma attenzione, perché anche noi abbiamo il nostro virologo, il professor Piero Picchio, che torna con noi e che forse ci darà delucidazione, ma lui in generale ci dà delucidazione perché lui ha studiato. Lode a te, O virologo. Grazie. Picchio, sono il professor Piero Picchio, ecco, sono tornato. Sì. Potevo essere in questo momento sul mio Panfilo, acquistato grazie alle mie partecipazioni in TV, ma invece no, il dovere mi chiama. Ho dovuto abbandonare quattro squinzie in bikini che prendevano il sole a prua, perché molti miei colleghi stanno dicendo che il virus è ritirato, ma non è vero. Non dobbiamo mai abbassare la guardia, dobbiamo rimanere sempre attenti e sospettosi come un agente del KGB. Quindi il dottor Milan ha fatto bene invitarmi, perché le persone si stanno dimenticando del coronavirus e pensano solo al bonus vacanze, al bonus biciclette. Ma siccome qui non mi pagate, vediamo di fare una cosa veloce. Ah no? Allora vediamo. Questa è una buona avanti notizia. No, non mi pagate, l'ho saputo purtroppo troppo tardi. Allora, avanti con i dubbi degli ignoranti all'ascolto. Ignoranti. Ma no, ascoltatori. Quasi tutti, sì. Quasi tutti quelli all'ascolto, tutti voi, anche lei Milan, non sapete nemmeno cos'è uno ione poliatomico. Io infatti effettivamente non sapete cos'è lo ione poliatomico e pretendete di tornare alla normalità. Però c'ho Google ione poliatomico. Prima impari cos'è lo ione poliatomico e poi torni alla normalità. Io per esempio lo so cos'è lo ione poliatomico, lo so perché ho studiato. Anch'io adesso. Voi no, mi mettete in un bagno primordiale di ignoranza e pretendete di tornare nel brodo primordiale dell'ignoranza e pretendete di tornare alla normalità. Vabbè. Allora vorrei che tutti voi ripeteste: lode a te, o virologo. Lode a te, o virologo. Lode a te, o virologo. Io sono intelligente, ho studiato, so cos'è lo ione poliatomico e voi no. È per questo che io ho un panfilo e voi passate i weekend in coda sulle autostrade liguri. Allora, sono qui per rispondere alla domanda di qualche ignorante. Giovanni da Reggio Emilia chiede se deve ancora mettere la mascherina. l'ignorante chiede se deve ancora mettere la mascherina. Sì, devo ancora mettere la mascherina anche se non è obbligatorio, eh? All'aperto lì dove abita lui in Emilia Romagna. Che domanda. Ma è una domanda, caro, è una domanda anche intelligente, Giovanni, per capire ignorante come comportarsi. Allora, caro ignorante Giovanni, tu la mascherina dovresti indossarla sempre, così si capisce meno quello che dici. Una domanda intelligente, ecco. Complimenti. Aspetta che chiedo cattivo, al mio cane. Cane, cane, senti, Giovanni l'ignorante, deve mettere la mascherina. Hai sentito, caro Giovanni ignorante? Ha rimasto anche il cane, eh? Tieni la mascherina e stai a casa. Avrai sicuramente in casa un puzzle che non hai finito durante il lockdown, un puzzle di 10 pezzi, eh? E non riesci a terminarlo, un vero rompicapo, eh? Ma povero, ecco, Giovanni, lì, finisci il tuo puzzle di 10 pezzi, tieni la mascherina e stai a casa. C'è anche il mio cane. Ma no, il cane, non allora, è vero, ma che razza è il suo cane? Un cane, un Dobershire, un incrocio fra un Doberman e un Yorkshire. Ma cos'è? Allora, un'altra domanda. Anna, sì, da Tortona vuole sapere se, sì, in autunno ci aspetterà un nuovo lockdown. Sì. Cara Anna ignorante da Tortona, aspetta che prendo la strumentazione tecnica necessaria per darti questa risposta, cioè la sfera di cristallo, eh? Vuoi sapere anche se la tua relazione si trasformerà in qualcosa di serio, se riceverai una promozione? Allora facciamo una cosa, tu dormi, io ti do i numeri del letto del lotto, cara Annona ignorantona da Tortona, eh? Sai qual è il modo migliore per prepararti a un altro lockdown? Abituarti fin d'ora a stare a casa. Così se poi facciamo il lockdown sei già pronta. Compro una tutona nuova, un bel paio di ciabatte pelose con la testa da unicorno, fai la scorta di lievito e carta igienica e voilà, sei pronta a stare a casa, cara Anna. Allora abbiamo tempo per un'ultima domanda, o no? Dica lei. Sì, dica forse lei. Sì. Per me è meglio di no, guardi. Abbiamo un allora, minuto. Daniela da Pescara dice che se diminuiscono i ricoveri vuol dire che il virus è diventato più buono. Bene, Daniele ignorante da Pescara, ma allora visto che sai tutto, non hai bisogno di me, cosa fai nella vita? Fai lo smart working, eh? Che cosa fai lo smart working? E poi come fai a sapere che il virus è diventato più buono? Cara Daniela, so tutto io, eh? Di la verità che quando fai le call spegni la videocamera, così intanto gli altri che parlano tu prepari il polpetto. Cara Daniela ignorante, allora io la saluto adesso perché devo tornare, grazie, sul mio panfilo dalle mie squinzie. Non sono certo di riuscire, bravo, a mantenere, bravo, la distanza di sicurezza perché il mio fascino lo impedisce, ma ci provo perché so che cos'è lo ione, ripeta quello di prima, lo ione poliatomico. Ignoranza, ignoranza, il trionfo, grazie, dell'ignoranza. Uno, grazie, nessuno, professor Picchi. Meno male che c'è lei, meno male che c'è lei. A domani.